ritrovati quindi anche questa settimana all'ascolto di Rock Revolution su CRMP Radio. Anche questo venerdì sera vi terremo compagnia fino a mezzanotte con la musica rock, le notizie, la musica dal vivo, perché poi intorno alle 22:30 avremo in studio come ogni settimana una band che suonerà per noi. Parliamo subito, caro Simone, di Skunk & Nancy. Sì, Skunk & Nancy che si apprestano a fare un vero e proprio mini tour italiano. Infatti, oltre al Neapolis Festival del 9 settembre, Skin & Soci hanno in programma altri 5 concerti nel nostro paese, partendo infatti dal 6 luglio in Piazza Castello a Udine, passando per Pistoia l'8, ancora domenica 10 in Piazza Castello a Ferrara, il 19 all'Arena Civica di Milano e infine il 20 all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. Insomma, davvero un bel tour italiano per la band. Tra l'altro Skin, che poi è la cantante di Skunk & Nancy, a quanto pare ha deciso di prendere casa in Italia. Allora, si vede proprio amore. Si è innamorata, insomma, ha detto che I love Italy very much. Sono molto innamorata dell'Italia e quindi ha deciso di trasferirsi. Adesso non si sa esattamente dove, però sappiamo che è una cosa che è già successa. Ad esempio Sting in Toscana e tanti altri artisti. Insomma, anche lei ha deciso di venire qui in Italia, probabilmente per il bel cibo, la bella gente e chissà cos'altro, il buon vino sicuramente anche quello. Va bene, allora, c'è un'altra notizia, leggiamo adesso, che ne pensi dei Pearl Jam, che a quanto pare si è sentito dire, insomma, che inizieranno il lavoro per il nuovo album. Sì, sono uscite alcune rivelazioni di Jeff Ament, appunto il bassista, riferendo del potenziale materiale e annunciando anche che si troverà presto con i suoi compagni per iniziare appunto i lavori. Abbiamo fatto molti demo e ora ognuno di noi ha un disco con 25 pezzi e appena ci ritroveremo impareremo a suonare tutti quei demo per decideremo appunto i 12 o 15 che poi saranno quelli del disco effettivo. Infatti chissà che fine fanno poi gli altri pezzi che registrano, verranno fuori fra qualche anno con un bel inedito, sì, insomma, non si butta niente, come la carne di maiale praticamente. E vabbè, staremo a vedere, insomma, a sentire per Jam cosa combineranno di bello. Anche questo nuovo album, insomma, sempre un grande successo per loro. Tra l'altro sono i protagonisti anche di Rock and Rim quest'anno, un evento rock molto importante che avviene negli Stati Uniti, alla quale partecipano le band più forti del tempo, insomma, tipo Metallica, Nirvana una volta, sì. Magari potessero ancora oggi partecipare. Allora siamo in diretta, scriveteci 335 56 37 251, questo è il numero per gli sms. Arrivano The Cure con Burn, questo è Rock Revolution su CRMP Radio, buon ascolto. We'll be right back. Hai una band? Vuoi far conoscere la tua musica in radio? Visita il sito www.rockrevolution.it. Allora, eccoci nuovamente in diretta con Rock Revolution. Andiamo subito a fare l'intervista, la prima intervista di questa sera. Ci mettiamo in collegamento telefonico. Cos'è sta? Ste trombe sembra un po' da Batman. Sento un po' Batman, la mia Batmobile, il mio Batmicrofono. Siamo pronti per metterci in collegamento quindi con Milano. Andiamo a conoscere questa band molto forte. Loro sono i Downhead. E vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Ciao, ci siamo. Buonasera. Ciao. Con chi parlo? Ah, un po' con tutti. Io sono Marco, il cantante. Stefano, batterista. E Alessandro, chitarra. Bene, quindi Marco Gioffre, allora rhythm guitar and vocals, poi Alessandro Checchi, lead guitar, Stefano Leoni, batterie, percussioni, backing vocals. Allora, esatto. Sappiamo che i Downhead nascono nel 2008 a Milano. Raccontaci qualcosa riguardo alle origini della vostra band. Sì, guarda, noi siamo nati nel 2008 a Milano e diciamo che siamo partiti con l'idea di esprimerci prima di tutto. Sì. Poi è stato molto interessante per noi cercare di fondere le influenze che ognuno di noi porta in studio per creare, insomma, qualcosa di particolare, di interessante. Mm-hmm. Senti... Sì, abbiamo tutte le esperienze diverse, quindi fondamentalmente... E la cosa interessante appunto che ognuno apporta il suo contributo personale, infatti da quello che ci dicono anche quando ascoltano i nostri pezzi è interessante sentire un po' questo mix di esperienze. Infatti. E ci divertiamo fondamentalmente. Questa è la cosa più importante, assolutamente, è divertirsi e poi comunque avere la possibilità di comunicare tutte quelle che sono le sensazioni che si provano, gioia, dolore, rabbia, insomma quello che avviene, insomma, normalmente nella sensazione, sì, certo, dell'uomo. È allora, un bello sfogo, devo ammettere, quando andiamo in studio meglio della palestra. Bello, bene, sono contento. Senti, come avete festeggiato i 150 anni l'Unità d'Italia? Beh, abbiamo messo sul disco fondamentalmente e abbiamo trovato tantissima birra. Bene, esatto. Bene, sono molto contento. Senti, allora, avete sempre seguito la stessa linea musicale oppure il vostro sound attuale deriva da un percorso specifico? Noi abbiamo visitato il vostro indirizzo MySpace, che ricordo con l'occasione www.myspace.com/downheadrocks. Quindi avete iniziato facendo qualcos'altro e poi vi siete evoluti in questa musica, in questo sound? Guarda, fondamentalmente all'inizio sì, abbiamo iniziato con delle idee abbastanza chiare su determinati sound, eccetera. Poi abbiamo preferito continuare ad evolverci, sperimentando in continuazione nuove strade per non fossilizzarci, insomma, e anche per divertirci sempre di più. Mm-hmm. Sì, sì, fondamentalmente la band non nasce come tante altre band da prima un'esperienza di cover e poi invece il progetto di inediti. Noi siamo partiti direttamente col progetto di inediti con un'idea ben precisa e con poi diciamo un'idea ben precisa di fare della, come dire, dell'arte nostra. Dopodiché sì, il discorso del suono, è, come ti spiegavamo prima, è derivato proprio da l'apporto di tutti. Ecco, parlando appunto di apporto di tutti, per poter capire bene, insomma, qual è il contesto in cui vi esprimete, quali sono state le band che più vi hanno appassionato e quindi che poi vi hanno influenzato anche in questo genere, volenti o nolenti? Ma diciamo che appunto l'esperienza di tutti ha portato ad avere una sorta di unione di molti gruppi. Diciamo che la scena post-rock, post-metal, maggiormente americana ma anche europea, comunque ci ha influenzato e ci influenza tuttora, perché comunque è un genere che stiamo esplorando ed è un genere che ogni giorno presenta comunque altri gruppi che vengono fuori e ci portano ad ascoltare cose nuove, a prendere ispirazione da questi gruppi. Diciamo che comunque non è bene per noi fossilizzarci su un unico genere, ma piuttosto cercare di creare, appunto, come si è detto dall'inizio, un genere proprio che cerchi in qualche modo di far riconoscere il sound del gruppo, diciamo. Certo, pensate di riuscire ad identificare un genere, anche crearlo nuovo, insomma, come vi definireste? Grunge, punk, metal? Sinceramente, guarda, non riusciamo neanche a capire noi quale sia il genere e non abbiamo, vabbè, la pretesa di creare un genere come hanno fatto grandissimi gruppi in passato. Cerchiamo di divertirci a modo nostro, in maniera spontanea. Sì. No, diciamo che tra l'altro abbiamo avuto una serie di recensioni che sono tutte, come dire, si possono leggere sulla nostra pagina Facebook, e abbiamo notato che tante persone ci, come dire, ci accostano una serie di generi, come può essere il post grunge, o generi tipo, come dire, gruppi tipo Tool, Mastodon, Perfect Circle, piuttosto che a gruppi modern rock come gli Alter Bridge, Creed, eccetera, che in qualche maniera ci hanno influenzato. Stranamente, tante volte ci ritroviamo con delle definizioni che magari noi non avevamo neanche pensato, quindi la cosa interessante è proprio questa. Scoprire, insomma, di appartenere magari a un genere o forse non neanche appartenere a qualcosa è sempre una bella esperienza, quella di trasmettere una musica e cercare di farla nel modo più interessante e nuovo possibile. Ragazzi, com'è la scena musicale a Milano in questi ultimi anni? Io mi sono un po' allontanato da Milano. Cosa è successo negli ultimi 4-5 anni? Guarda, di gruppi ce ne sono sempre tanti, nel senso, io noto che alla fine i gruppi emergenti ce ne sono tanti, e ce ne sono tanti che hanno qualcosa da dire, la qualità c'è. C'è da dire che purtroppo i locali diminuiscono sempre di più, infatti è anche un fatto di cronaca recente la chiusura di alcuni club, come per esempio la Casa 139, eccetera. È un po' come se la musica, anche, quindi anche quella emergente, non fosse molto ben accolta da Milano negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece centri sociali, Pergola, Leoncavallo, lì c'è sempre opportunità, oppure magari voi preferite un target diverso? Sono sempre le opportunità, anche questi tipi di centri di aggregazione purtroppo soffrono, insomma, della politica che c'è adesso a Milano per quanto riguarda la musica dal vivo, o comunque l'intrattenimento per i ragazzi che hanno voglia di divertirsi, di sfogarsi. Certo, cioè, non vi dico di consolarvi, perché comunque non ci si deve consolare, però è una situazione che è comune in tutta Italia. Come voi sapete, noi facciamo, insomma, delle interviste ogni settimana, band che poi fanno parte, insomma, del tutto il nostro bello stivale, e tutti quanti, insomma, ci dicono la stessa cosa, che purtroppo c'è proprio questa difficoltà nel proporre musica inedita e comunque trovare degli spazi per farlo. Speriamo, insomma, che le cose nel futuro possano evolversi decisamente meglio di adesso. Parliamo del vostro nuovo EP, un EP che tra l'altro è prodotto da poco. Presentatelo ai nostri ascoltatori. EP è uscito l'11 di gennaio, quindi è recente, se vogliamo dire. È un EP composto da sei pezzi che abbiamo scelto tra i diversi che abbiamo composto negli ultimi 2 anni, e in qualche modo è un EP che cerca di esprimere un po' il percorso che abbiamo fatto. Io consiglio a tutti di andare a scaricarlo, perché è scaricabile gratuitamente attraverso la nostra pagina Facebook. Se scrivete Downed su Facebook o su MySpace dovreste trovare la pagina. Così anche gli ascoltatori, insomma, possono farsi una loro idea. Certo, tra l'altro poi ascolteremo anche un pezzo tratto dal vostro ultimo EP, che si intitola Black As Me. Di cosa parlano le vostre canzoni? Ma guarda, ogni canzone parla in un qualche modo di esperienze vissute e provenienti, insomma, da, come dire, fatti di tutti i giorni, insomma, in realtà, anche perché noi utilizziamo il gruppo anche un po' come uno strumento per poterci esprimere, quindi ci esprimiamo sia musicalmente che anche attraverso le parole dei testi, magari in seguito a qualche avventura che ci ha colpito particolarmente. Certo, sentite, allora la vostra musica quindi si può scaricare dal vostro MySpace, che ricordiamo ancora una volta myspace.com/downheadrocks, che tra l'altro poi trovate anche nel nostro sito internet nella sezione artisti. Noi siamo ansiosi di andare ad ascoltare questo pezzo, vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e vi facciamo tanti auguri. Grazie. Grazie, buona serata, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao, ciao. E quindi Rock and Roll su Rock Revolution con i Downheads a Milano. Ascoltiamo questo bel pezzo che si intitola Black As Me. Fate parte anche voi di Rock Revolution. Scriveteci redazione@rockrevolution.it. Musica inedita, musica emergente come ogni settimana. Buon ascolto. I'm Davvero complimenti, e Downheads, Black as Me. Devo ringraziarvi personalmente perché questo pezzo mi ha risvegliato un po' dal coma del raffreddore. Complimenti, complimenti. Mi farò fare una ricetta al medico la prossima settimana. Se dovesse continuare, facciamo corna. Con un altro pezzo di Downhead. Dopo i pasti. Dopo i pasti. Va bene, allora, se Simone sei pronto, parliamo un po' del sondaggio di questa settimana. Non lo facciamo adesso, però spieghiamo un po' agli amici come si fa. Sì, praticamente noi di Rock Revolution ogni settimana andiamo a scegliere tre brani che sono presenti sulla nostra playlist musicale, playlist che si arricchisce sempre di più dai pezzi che voi ci inviate, dai vostri pezzi inediti ovviamente, e noi da tutti questi pezzi ne peschiamo tre ogni settimana, li proponiamo ai nostri ascoltatori, ai visitatori del nostro sito che li ascoltano e li votano, e il brano vincitore viene trasmesso per tutta la settimana successiva su CRM Pirelli. Benissimo, allora visitate il nostro sito internet www.rockrevolution.it. Salto indietro nel tempo, Led Zeppelin. Sulla nostra radio, visita il sito www.rockrevolution.it. Let's go. Allora, come anticipato, è arrivato il momento del sondaggio della settimana. Abbiamo appena ascoltato i Queen con Hammer to Fall, grandissima canzone rock di, senza dubbio. È stata una settimana veramente con una battaglia all'ultimo sangue fra queste tre band, davvero Simone? Guarda, sì, fino agli ultimi minuti, prima della chiusura, c'era un testa a testa, non voglio dire altro, ma un testa a testa fino all'ultimo. Davvero avvincente questa settimana il sondaggio. Bene, allora siamo proprio curiosi di andare a scoprire qual è la band che ha vinto questa settimana. Inizia la sigla, ci vuole. Avanti. Il sondaggio della settimana. Bene, sondaggio della settimana. Quindi scopriamo qual è la band che ha vinto questa settimana. La band vincitrice del sondaggio della settimana è Oceans 5, Oceanic Sensation. Che bella questa canzone, complimenti. Avete vinto una settimana di rotation nella nostra emittente. E quindi ascoltiamo gli Ocean Sensation con Oceans 5, Oceano 5, Oceani 5, Oceani. Bello, bello. Questo è Rock Revolution. Buon ascolto anche questo venerdì sera. Vi faremo compagnia fino a mezzanotte. Non andate via, mi raccomando. Within from store, I pray God. Ocean is screaming, wind is so glad. Breathing these Florida airs, oh so far away. Thinking about the dreams, out is raining in the rain. Oceanic Sensation, gli Ocean 5. Prima sono un po' ingrippato su questa canzone. Non me ne vogliate, sono raffreddato, insomma posso anche sbagliare, no? Va bene, mancano pochissimi secondi alle 22. Subito dopo la pubblicità ci sarà il Rock for You, i quattro successi rock in sequenza, come senza interruzioni, insomma, come sapete bene, quattro grandissime canzoni, le più belle di tutti i tempi molto probabilmente. Quindi facciamo subito una piccola pausa, dopo Best Rock Music On Air with Rock Revolution on CRM Happy Radio. Allora dite che dobbiamo bombardare proprio in questo momento. Incolali, ciao signore. No! I see that chaos. For You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. città non era più la stessa. È accaduto tutto così in fretta, tutto è andato a puttane. È come se il senso della morale di tutti fosse scomparso. La crisi economica peggiorò ancora di più le cose. Sono saltati i posti di lavoro, molti negozi hanno dovuto chiudere. Poi un uomo di colore è stato eletto presidente. Avrebbe dovuto cambiare le cose, non l'ha fatto. Sempre più persone si sono date al crimine e alla violenza. La città era stretta in una morsa di paura. Sono tempi bui. Alla città serve protezione. C'è un animale che vive di notte. Fruga nei bidoni, li ripulisce dall'immondizia. Per eliminare gli scarti della società, ho scelto d'essere più di un uomo. Sono l'eroe di cui questa città ha bisogno. Io sono... Rock Revolution su CRM Happy Radio. Take me down to the paradise city where the ground. quattro successi rock più belli di tutti i tempi, in sequenza mixata. E questo era il Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Anche questa settimana vi abbiamo fatto ascoltare alcuni che sono fra i più bei successi rock and roll, tranne forse l'ultimo, che era una chicca che il nostro caro Gianni in regia ha voluto mettere, John Black, tratto da School of Rock, insomma questo film molto simpatico che vede poi John Black, appunto l'attore che addestra una band di ragazzini in una scuola, insomma andatelo a guardare, molto simpatico, si intitola School of Rock. Va bene, siamo quindi pronti ai nostri posti di combattimento per iniziare questa bellissima ennesima intervista in studio. Questa settimana abbiamo una band che viene da Palermo, però direi di iniziare ufficialmente con il nostro modo, insomma B2E, questa è una bella cosa. Fermiamo tutta la musica, quindi di base, di sottofondo, e iniziamo nel silenzio questa nostra nuova presentazione di ospiti che Rock Revolution vuole offrirvi. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Ebbene sì, da Batman al circo questa sera. Direttamente da Palermo, per Rock Revolution, Lalla Into the Garden. Buonasera. Ciao. Standing Innovation anche per voi. Sì, sì, qui abbiamo un pubblico veramente numeroso. Allora ragazzi, intanto benvenuti a Rock Revolution. Iniziamo con le presentazioni. Sappiamo che l'ideatrice e fondatrice dei Lalla Into the Garden sei tu, Laura. Come e quando nasce l'idea di questo progetto? Allora, il gruppo è nato circa 3 anni fa un'idea di base con Daniele, il fisarmonicista che stasera è qui. Ecco, salutiamo Gabriele. Tra l'altro Daniele, Gabriele, appunto, fisarmonica e chitarra. Scusa. No, lui è Giuseppe. Ah, Giuseppe. Giuseppe Rizzo la chitarra e Daniele Tesauro la fisarmonica. Perfetto. L'altro chitarrista che in questi 3 anni ha suonato con noi, Gabriele Giombertone, diciamo, ha cominciato con me e con Daniele questo percorso che poi ha trovato la sua forma primigenia con un violoncellista, Marco Di Fonte, mm-hmm. Carmelo Graceffa la batteria e Giuseppe che si è unito a noi praticamente subito. E abbiamo cominciato a lavorare su questi brani che io nel tempo avevo, diciamo, scritto e collezionato. Uh-huh. La formazione è andata cambiando nel corso di questi anni. Abbiamo cambiato praticamente un batterista all'anno. Che bello, bel primato. Sì, esatto, è stato abbastanza faticoso, devo dire. E niente, dopo abbiamo cominciato a rivedere un po' le posizioni. Marco se n'è andato e non ritorna più. E adesso siamo ad una nuova fase in cui il progetto, più che essere un gruppo vero e proprio, è una specie di famiglia aperta, una scatola dentro la quale circuitano diversi musicisti, loro naturalmente per presupposto, ma anche dei noi ragazzi, musicisti palermitani, ma anche non soltanto, ecco, anche da Roma, eccetera. Ecco, infatti, qual è il tuo rapporto con Roma? Sappiamo che spesso siete in giro, sei in giro anche tu, insomma, vai in giro. Come mai Roma? Io credo che con la nostra redazione ci siamo scambiati delle email per fissare la data di questa intervista, e so che insomma eri molto impegnata. Sì, naturalmente, per fortuna anche non sono la sola di questa formazione, diciamo, zoccolo duro, ad essere molto impegnata. Io cerco di viaggiare il più possibile e di portare anche in giro la mia musica il più possibile, per cui la settimana scorsa ho avuto 2 concerti a Roma con appunto una formazione, un trio con 2 ragazzi della provincia di Roma con cui ho suonato e mi sono trovata benissimo. Tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di collaborare per un paio di brani durante la serata di domenica con un violinista che si chiama Andrea Di Cesare, che è il violinista di Carmen Consoli, quindi è stata una bella cosa. Bella esperienza. Senti, come descriveresti la tua musica, la tua proposta musicale in poche parole, cioè un genere, un messaggio, delle ispirazioni? Puoi andare anche in ordine se vuoi. No, allora guarda, ti dico, in realtà le canzoni nascono prevalentemente da esperienze di vita vissute e sono quasi degli sfoghi o dei racconti, per cui è un po' quello che faccio con le mie canzoni. Cerco di curarmi scrivendo, è un'autocura continua quando le canto, ed è questo quello che spero che, insomma, avvenga anche a chi l'ascolta, cioè che si possano ritrovare nelle esperienze di vita che poi sono un po' quelle di tutti, specialmente quelle sentimentali. È efficace anche contro il raffreddore? Parlavamo di cure. vedremo, alla fine della puntata me lo saprai dire. Bene, senti Laura, parlaci un po' del nome della band, di questo tuo progetto Lalla Into the Garden. Cosa significa? Di quale giardino stiamo parlando? Il giardino l'Eden oppure? No, assolutamente. È più, diciamo, un giardino segreto, quello che c'è al di là della buca del Bianconiglio, se vuoi. In realtà l'idea del nome è nata sull'onda della necessità di trovare un nome, perché avevamo una data già fissata, ancora la prima data, ancora prima di avere il nome. Quindi mi sono lanciata così un po' in questa ricerca di fantasia, e il nome mi è venuto dalla dedica che mia madre scrisse quando mi regalò il Candido di Voltaire. In francese c'era scritto: bisogna coltivare il nostro giardino, cioè dobbiamo coltivare il nostro giardino. E l'immagine del giardino è effettivamente molto affine alla mia idea della musica, del comporre soprattutto e del cantare anche. Quindi questo Lalla Into the Garden, Lalla perché è il mio insomma soprannome da bambina, il giardino per questo motivo, e poi alla fine in realtà è questo un po' anche quello che è successo con i ragazzi, cioè ognuno ci ha messo veramente del proprio, e questo è quello che succede anche con la gente che si lascia trasportare dalle canzoni. Bene, siamo molto contenti di avere un bel nome. Allora ragazzi, iniziamo subito con l'ascoltare insomma la musica inedita, la bellissima musica dell'Lalla Into the Garden, con un pezzo registrato in studio che si intitola Cuore Fisarmonica. Buon ascolto. Se ci ascoltate su internet avete avuto modo in questi pochi minuti di guardare anche qualche foto dei Lalla Into the Garden che sta scorrendo nella nostra webcam, il nostro canale di TV, sapete, oltre all'audio siamo anche in audio e video streaming sul nostro sito crmpiradio.it o rockrevolution.it, quindi da qui a poco avrete l'opportunità anche di guardare Lalla Into the Garden esibirsi dal vivo. Laura, parlaci un po' della tua dinamica compositiva, come nasce un brano? Lo tiri fuori dal cappello, adesso potresti... In sostanza succede questo, se non fosse che la maggior parte dei brani, non so per quale motivo, vengono fuori in doccia, quindi il cappello non lo porto in quelle circostanze. Sì, no, in realtà non c'è un procedimento standard, nel senso che ancora sono purtroppo, per fortuna, molto schiava del momento, mm-hmm. per cui è il pezzo che in qualche modo mi viene a trovare, molto spesso direttamente con la musica e il testo insieme. Altre volte invece sono partita magari da qualche appunto scritto in un momento X e poi rielaborato. Comunque prevalentemente scrivo o, diciamo così, di fantasia nella mia testa e poi vado a costruire il pezzo al pianoforte, o direttamente suonandomi delle cose al piano. Mm-hmm. Senti, generalmente, insomma, la musica, generalmente, spesso la musica con la fisarmonica viene associata un po' a tutto ciò che è popolare, che è folk. Pensi di riuscire di entrare in questa definizione? Sì, vabbè, dipende da che cosa si intende per folk. Comunque certamente c'è una forte matrice di questo tipo. Ora, io ho sempre avuto difficoltà, anche con i ragazzi ne abbiamo parlato spesso e non soltanto con loro, difficoltà, dicevo, a incanalare il progetto in un genere specifico. Ma sicuramente le esperienze con la musica folk italiana, siciliana e non soltanto, perché Daniele è un abitué della musica balcanica, per cui sicuramente la musica folk ha una forte influenza in quello che abbiamo fatto finora. Allora, parliamo di popolare, mi viene da naturale chiedervi come avete passato la festa dell'Unità, no? Ieri è stata la festa dei 150 anni dell'Unità d'Italia, prima capitale d'Italia, Salemi, tra l'altro una cittadina della nostra bella Sicilia, e oggi ci troviamo in un momento in cui c'è qualcuno, insomma, che pensa di voler dividere l'Italia. Cosa ne pensate riguardo? Domanda di politica. Ma allora, a questa possono rispondere anche i ragazzi, secondo me. Ecco, io volentieri, così ascoltiamo anche la voce del fisarmonicista, no? Che ne pensi di questa festa dell'unità d'Italia? Ma contraddittoria per certi versi, però in fondo forse quello che, di cui dobbiamo andare fieri è la nostra cultura, in qualche maniera è quella che ci rende unici nel mondo, il resto siamo una delle nazioni con più cultura all'interno. E ovviamente forse chi vuole dividere l'Italia è anche quella che non finanzia la cultura, per esempio. Certo. Beh, quello volevo sentire. No, sto scherzando. Volevo sentire anche il chitarrista cosa ne pensa. Vieni, avvicinati un po' al microfono. Anzi, puoi parlare, guarda, al microfono che hai vicino a te, quello lì, perfetto. Che dire, sono d'accordissimo. L'Italia, diciamo, è unita in questo momento, penso solo geograficamente. Ed è un peccato. Perché mm-hmm. soltanto sinergia penso faccia alla fine andare avanti le cose. In questo momento si percepisce molta divisione ed è un peccato. Perché certo. Comunque la paghiamo tutti, questo è il vero problema secondo me. Mm-hmm, assolutamente d'accordo. Va bene, allora adesso... Non siamo molto patriottici, sì, diciamo, sì. Questa è la sintesi, che non ci sentiamo molto patriottici in non questo mi momento. Sentite, però secondo me bisognerebbe forse sentirsi un po' patriottici. So che è brutto magari ammetterlo, però nonostante ciò magari abbiamo qualcuno che non ci rappresenta dal punto di vista politico, probabilmente da tanti punti di vista, perché insomma fra mazzette e feste è ormai diventato un gran casino. Però forse bisognerebbe non perdere quelli che sono gli ideali e le idee, quelle buone perlomeno. Vabbè, chiudiamo questa piccola parentesi di politica e andiamo ad ascoltare i Lala Into the Garden in versione dal vivo, in versione acustica questa sera per Rock Revolution. Prima esperienza dal vivo da questo punto di vista, acustico e radio? No, con loro due sì, ma no. Ah, bene, non allora, in assoluto. Bene, siamo contenti. Allora, Lalla è comunque non loro cioè non loro prima esperienza radiofonica, perché con altre situazioni, altri gruppi e progetti hanno però già fatto. Mai stati con Rock Revolution. Mai prima. Perfetto. Va bene, allora Lalla, ti passo la mia cuffia che grazie. Ti faccio questo bel pensierino e ascoltiamo quindi il primo brano di questa sera. Cosa avete pensato di farci ascoltare? Alla luce del giorno. Alla luce del giorno, Live and Plat per Rock Revolution questa sera dal vivo il Lalla Into the Garden. Buon ascolto. È la prima. Grazie. La loro serata finiva Finiva di giorno, si è fatto tardi e dovrei levarmi di torno. La luce del sole mi dà da pensare, pensare, pensare. E intanto pulsavano le vene, passava anche un cane, le fronti sudate, sorrisi e zanzare. Ma cosa c'è di nuovo dentro questa città che io non abbia visto e che tu non conosca? E che ci importa ad un angolo senza ritorno? Quel che ho visto stanotte mi piace e mi basta. Ci sono storie che sanno farsi aspettare. La loro finiva ogni volta per poi ricominciare. Se fossimo insieme da sempre ci saremmo stancati e invece ti voglio ancora averti ma in piccole dosi così diluita nell'arco del tempo di tutta una vita. Ma cosa c'è di nuovo dentro questa città che io non abbia visto e che tu non conosca? E che ci importa ad un angolo senza ritorno? Quel che ho visto stanotte mi piace e mi basta. Che cosa c'è di nuovo dentro questa città che io non abbia visto e che tu non conosca? E che ci importa ad un angolo senza ritorno? Quel che ho visto stanotte mi piace, mi basta. Cosa c'è di nuovo dentro questa città che io non abbia visto e che tu non conosca? E che ci importa ad un angolo senza ritorno? Quel che ho visto stanotte mi piace e mi basta. Che cosa c'è di nuovo dentro questa città che io non abbia visto e che tu conosca? E che ci importa ad un angolo senza ritorno? Quel che ho visto stanotte mi piace e mi basta. Lala Into the Garden, complimenti ragazzi, veramente molto bella questa canzone. Allora, andiamo avanti. Grazie. Con l'intervista. Insomma, quale canzone secondo voi rappresenta meglio, alla quale siete il vostro progetto, alla quale sei maggiormente legata? Domanda da un milione di dollari praticamente. Allora, io penso che posso ovviare, diciamo, alla parte spinosa della domanda, mm-hmm, dicendoti che probabilmente il pezzo che finora ci ha portato e anche a me personalmente ha portato un po' più di porte aperte e anche ci ha permesso di mettere insieme, di mettere d'accordo il pubblico, diciamo, più eterogeneo, è probabilmente Cuore Fisarmonica, che è il pezzo che lo scorso autunno mi è valso il premio Bianca da Ponte 2010. Ma è anche quello che appunto diverte maggiormente sia durante i live che sull'EP, insomma, è quello che mette un po' d'accordo tutti. Io dico che è un pezzo passepartout, allora può darsi che sia questo il pezzo che meglio rappresenta lo spirito, ecco, del progetto per il momento. Senti, hai sicuramente notato, insomma, che oggi la maggior parte dei gruppi fugge a gambe levate da tutto ciò che è Italia e sceglie, insomma, di cantare in inglese. Tu invece hai preferito l'italiano, è stata una scelta ponderata oppure è venuta in modo spontaneo? Allora, io scrivo in italiano, in siciliano e in inglese. La Lento The Garden al momento ha prevalentemente dato spazio alla lingua italiana. In effetti, nel repertorio c'è stato a lungo anche un brano in inglese e poi un paio di canzoni in siciliano. Io vivo, ecco, il discorso della lingua utilizzata nei testi più come un fattore strumentale, un fattore musicale, sonoro, ecco, piuttosto che, diciamo, quindi il discorso della lingua inglese, che è più musicale, più melodica, più adatta al rock, comunque alla musica, secondo te non... Probabilmente non perché non facciamo rock e quindi il problema non ce lo siamo mai posti. Comunque io direi che, ecco, i pezzi nascono direttamente con la loro lingua, quindi forse a seconda della musica che mi gira in testa è più, talvolta è più indicato l'italiano o l'inglese, ma mi viene spontaneo, ecco, non ci sto a pensare due volte. Senti, invece parlando di esperienze, quale ricordi con più piacere o soddisfazione? Esperienza dal vivo, chiaramente. Sicuramente questa del Bianca da Ponte, non soltanto perché, diciamo, dal punto di vista delle competizioni è la più fresca, o meglio, non proprio, perché sono stata anche alle audizioni live di Musicultura praticamente un mese fa, però il Bianca da Ponte è stata un'esperienza bellissima, non solo perché l'atmosfera lì, era già la seconda volta che ci andavo in finale, e l'atmosfera è molto accogliente, molto ecco, molto familiare, e poi naturalmente, insomma, la vittoria, tutte le celebrazioni e vedersi riconosciuto, ecco, il proprio lavoro è sempre molto importante. Decisamente. Va bene, andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo di Lala Into The Garden, e si intitola semplicemente Il Tempo Scorre. Buon ascolto. A lungo sono stata cieca su di te. Si il tempo indeciso, ultra inconsistente, impunito. Non scegli, tu non sai scegliere, ma ti trascini in contraddizioni e la mia mente metti alla prova. Into the Garden, il tempo scorre, che bella questa canzone, un po' un viaggio, no? Altro, oltre al tempo mi sembra anche di viaggiare, qualcosa che scorre, è una bella sensazione. Allora Laura, come vedi il futuro musicale italiano? Parliamo di politica musicale. Ma io lo vedo assolutamente cupo, ecco, vedo immaginavo. Un sacco di gente che si dà tantissimo da fare. E questa è una cosa bella, vedo che la creatività non viene spenta e tra l'altro mi fa piacere che, come al solito, dalla Sicilia ma da Palermo negli ultimi anni stia emergendo tanta bella roba, però è un momento, un momentaccio, ecco, non a caso io sto cercando di emigrare. E infatti parlavamo proprio prima di fuga, le menti non solo dall'Italia ma anche dalla Sicilia, di menti e anche di mani, perché chitarra e così via. Parlaci un po' delle tue produzioni, su cosa stai lavorando attualmente o hai lavorato di recente? Per quanto riguarda i Lalla, diciamo che noi abbiamo ancora questo EP di 6 brani che ormai è finito già da più di un anno, lo stiamo comunque facendo girare il più possibile, è arrivato fino in America ma non è ancora stato pubblicato ufficialmente, per cui adesso la prossima mossa sarà quella di far arrivare, insomma, agli addetti ai lavori in maniera proprio formale copia del disco, per vedere se qualcuno può essere interessato in questo senso ad aiutarci nella distribuzione. Dopodiché, insomma, continuare sicuramente a scrivere pezzi nuovi, ce ne sono già alcuni nuovi in cantiere che vanno presentati nelle giuste occasioni, e cercare di suonare il più possibile, appunto, come dicevi tu, non soltanto in Sicilia ma non soltanto in Italia. Certo, va bene, allora ragazzi, ascoltiamo l'ultimo purtroppo brano che questa sera ci proponete. Cosa ci fate ascoltare? Da quando Elisa se n'è andata. Benissimo, Da quando Elisa se n'è andata, e Lalla Into the Garden, Live and Plug per Rock Revolution. Buon ascolto. Da quando Elisa se n'è andata, non c'è niente che si posa, non c'è niente che si posa, non c'è niente che riposa, non c'è falco che si posa, che al suo nido riposa, non c'è foglia che si posa, nessun'anima riposa. Da quando Elisa se n'è andata, non c'è anima dorata che gioisca nella sera. Ed io sono sola, la, la. tra le nubi sfilacciate del momento in cui vien sera, elementi indaffarate della prima primavera e le pagine imbiancate di quel libro che mia madre ha comprato qui vicino. È l'ennesimo regalo, cerco un senso al mio vagare, al continuo dubitare, incessante ticchettare del mio cuore. Là. Ma io sono qui, cerco parole e aspetto il suo veleggiare verso me. Resto qui finché va bene, tanto lo so che non è così, che c'è da camminare. Abbiamo un sogno, costruire una casetta su di un'isola deserta, dove andare ad abitare con due splendidi ragazzi, qualche figlio, forse un cane, con un piano nel giardino e chitarre in riva al mare. Saranno giorni soddisfatti di quel vivere e viaggiare, di fallire, riprovarci, di sbagliare e starci male, di quel fulgido destino che ci siamo disegnato, e sentire che ogni giorno non è stato sprecato. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Devo dire che effettivamente ascoltare questa canzone suonata in versione acustica in questa stanza così piccola e con tutto che sono raffreddato è davvero molto particolare e molto coinvolgente. Ragazzi, io vorrei insomma trascorrere tutta la puntata assieme a voi ascoltando la vostra musica, però purtroppo dobbiamo continuare il programma. Vi ringraziamo infinitamente di essere stati con noi, di averci fatto conoscere il vostro, il tuo progetto musicale, il Lullaby to the Garden. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori, grazie a te e a tutti quanti i vostri musicisti, insomma, perché sappiamo poi che ci sono anche diversi che girano. Ricordiamo il vostro MySpace, www.myspace.com/lullabyintothegarden. L'ho detto un misto fra italiano e in inglese, Lullaby into the Garden. Comunque sul nostro portale rockrevolution.it lo troverete molto facilmente, perché abbiamo tutti quanti i podcast con le registrazioni delle puntate che poi avrete il piacere di andare a riascoltare quando avete voglia, oltre ai video e le fotografie che stasera sono stati registrati. Laura, grazie ancora, per concludere ti lascio la parola. Grazie, allora intanto vi ringrazio per l'invito e per la disponibilità anche insomma che avete dimostrato nel riuscire a mettere insieme con un po' di fatica questo incontro. Voglio ringraziare ancora Daniele e Giuseppe per avermi accompagnata stasera, perché comunque è sempre un piacere continuare a suonare la nostra musica insieme. E niente, io spero di venirvi a trovare ancora, magari anche con gli altri ragazzi. Molto volentieri. Facciamo una cosa un po' più, ci stringiamo, tanto si sta bene uniti, no? Magari facciamo per il prossimo inverno, così anche se c'è freddo. Facciamo per il prossimo inverno. O chissà, magari quest'estate ci incontriamo a Cefalù per qualche manifestazione. Wow, sì, magari sì, anche volentieri. Oppure veniamo direttamente in costume da bagno, così non c'è problema di... Infatti, no, tra l'altro noi siamo spesso nei lidi, quindi possiamo conciliare le cose. Un bel falò magari. Volentieri, e volentieri. Si fa festa. Va bene, Laura, ragazzi, grazie ancora di essere stati con noi. Speriamo di sentirci presto. Un grandissimo in bocca al lupo per il vostro progetto musicale e la vostra carriera, che speriamo sia sfolgorante. Grazie mille. Rock Revolution continua a questo punto. Sono le 11, facciamo giustamente una piccola pausa e poi ritorniamo in diretta con due brani in sequenza, Skank & Nancy e Lenny Kravitz. A dopo. Vuoi il tuo brano in rotation sulla nostra radio? Visita il sito www.rockrevolution.it. Band. Vuoi far conoscere la tua musica in radio? Visita il sito www.rockrevolution.it. Questi erano i The Darkness con It's Just Me. Rock Revolution anche questa sera in diretta su CRMP Radio, questo venerdì sera, all'insegna della musica rock e della musica emergente, la musica inedita. Caro Simone, perché te la stai a ride? Perché niente, di là, dall'altra parte dell'acquario, qualcuno si diverte a giocare col mouse. Quindi... questo lo conosco. Lo conosci? Anche... infatti. Lo bacchettiamo appena usciamo. Allora, parliamo di Jon Bon Jovi, che a quanto pare definisce sì. Steve Jobs come un... un ammazza musica. Sì, le ha mandate a dire, diciamo, a Steve Jobs, che poverino, anche nominarlo di questi tempi non è tra l'altro molto carino, perché sappiamo tutti la terribile malattia che sta vivendo in questo periodo. Insomma, lo ha criticato più che altro per il suo successo con Etans. Jon Bon Jovi infatti ha dichiarato che lo ritiene personalmente responsabile di aver ucciso il business della musica. I ragazzi di oggi hanno perso il piacere di infilarsi le cuffie, alzare il volume al massimo e perdersi in un disco. Questo ha in un giornale americano. Mi spiace, riferisce ancora a parlare come un vecchio, ma lo sono, effettivamente lo è. E segnatevi le mie parole: tra una generazione si chiederanno ma cosa è successo. Insomma, così è, continua ancora in questa sua critica con Steve Jobs. Non la riportiamo tutta integralmente, però sicuramente un attacco abbastanza duro nei confronti del fondatore della Apple. Invece abbiamo scoperto che di recente i Coldplay hanno sbarcato anche nel grande schermo. Parliamo infatti di un'esperienza cinematografica. Sì, hanno deciso appunto di tentare questa strada, e il gruppo britannico ha scelto di diventare cofinanziatore di un nuovo film che si intitolerà Ashes, affidato alla regia dell'amico Matt Whitecross. Questa mossa giunge curiosamente proprio mentre Gwyneth Paltrow, la moglie del cantante appunto, sta interpretando, così almeno sembrerebbe, una carriera discografica. L'abbiamo sentita anche in qualche passaggio qui in radio. Whitecross è vicino alla band da parecchi anni e ha diretto alcuni loro video, tra i quali Christmas Lights, appunto l'ultimo singolo natalizio di quest'anno. Tra l'altro, diciamo che come regista ha anche affrontato un paio di documentari, tra i quali Sex, Drugs and Rock and Roll del 2010, sulla vita di Ian Dury. Tra l'altro, produttori esecutivi di Ashes saranno tutti e quattro i membri, ovvero Chris più Guy Berryman, Johnny Buckland e Will Champion. Tra l'altro, i Coldplay, me ne ricordo un video molto carino dove loro il cantante giocava con una torcia e faceva i disegni nel video. Insomma, sì, una sì, cosa sì, molto, molto carina. Particolare. Molto carino. Va bene, andiamo avanti con la musica, con Rock and Roll su CRMP Radio, Rock Revolution. Arriva due pezzi in sequenza molto belli. Io mi aspettavo i Dorsa di Avita, eh? Vabbè, li sentiamo dopo, tra l'altro è anche una richiesta. I Coldplay, proprio loro, e poi Bruce Springsteen su CRM. Lo ascoltiamo? Vabbè, lo facciamo, dopo parliamo di un'altra cosa molto interessante. Su CRM Happy Radio. Like you define, how you got stuck with me, and you complain. much noise and you cry. I'm always out with the boys. Due brani in sequenza, i Coldplay e Bruce Springsteen, con questo pezzo che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, davvero molto piacevole, devo dire la verità. A quanto pare sta per arrivare il nuovo Best of Iron Maiden, si parla di questa nuova uscita From Fear to Eternity. Il meglio fra gli anni 90 e il 2010, 1990-2010, il 24 maggio, doppio CD che ripercorre poi appunto gli ultimi 20 anni della carriera degli Iron Maiden, e la pubblicazione avverrà come il consueto, insomma, in questi eventi, con un doppio CD a prezzo speciale di un singolo disco. La raccolta poi tra l'altro sarà disponibile anche come digital download su iTunes e vari portali, e triplo vinile picture, molto bello, eh? Bene, andiamo ad ascoltare questa canzone dei Doors, molto discussa. Si intitola Touch Me. Questo è Rock Revolution su CRM. Buon ascolto. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Che sax, eh? Mamma mia. In viaggio. C'è anche quest'Hammond sottofondo. Sono i Doors, Touch Me, che tra l'altro è una richiesta che ha fatto la nostra redazione Ida, e quindi abbiamo accontentato questa sua bella richiesta. Ida, sei contenta? Allora, parliamo di Roy Paci, che tra l'altro è stato anche ultimamente presente in Sicilia, in particolare al carnevale di Termini Imerese. Sì, e partirà infatti proprio dalla Sicilia a fine marzo il suo Revolutionary Tour, che prende nome appunto da Roy Paci e Are Tusca, appunto, che ritorneranno nei club con un concerto rock e festaiolo con cui ripercorreranno 13 anni di carriera. Le canzoni proposte tra l'altro saranno, oltre ai grandi successi del bestiario siciliano, anche i brani contenuti in Latinista, che è appunto l'ultimo album che è uscito nel 2010. Roy Paci sarà inoltre ospite e testimonial di un importante evento mondiale per la tutela ambientale, la cui comunicazione appunto partirà a breve. In estate inoltre sarà concentrato sulla nuova tournée europea, anche se non mancheranno alcune incursioni nei principali festival italiani. Sul palco, insieme a Roy Paci e Are Tusca, ci sarà anche un ospite speciale, Moreno, che è il leader del gruppo salentino Still Ha. Bene, invece parliamo adesso di un altro gruppo musicale italiano molto conosciuto. Loro sono i Verdena. I Verdena, sì, che stanno appunto spopolando con il loro nuovo singolo tratto da Wow, che appunto va a succedere a Razzi, Arpia, Inferno e Fiamme. E appunto il nuovo singolo sarà invece Scegli Me, che è caratterizzato da un pop etereo. Appunto questo brano presenterà il doppio album del trio bergamasco. Bergamasco appunto avrà il compito di proseguire un cammino di successo che li sta vedendo presenti sia in tournée sia anche nelle radio infatti è prevista anche un'intervista con Rock Revolution dei Verdena. Prossimamente dovranno essere a Palermo, tra l'altro nel mese di maggio, quindi contiamo insomma verso fine aprile di averli, di intervistarli telefonicamente e sapere insomma un po' loro cosa ne pensano di questo loro nuovo lavoro molto molto interessante, di questo tour, anche per sapere insomma un po' com'è andata. Due brani in sequenza adesso, a me piace tanto Marilyn Manson, grazie caro Gianni, anche se devo dire proprio We're From America lo preferisco questo, ma è altrettanto bello The Beautiful, e poi i The Scorpions The Beautiful parla al microfono, te lo ricordi, no? grande rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Diamoci sotto come dei dannati. Questi erano due brani in sequenza, Marilyn Manson e gli Scorpions. Salutiamo due teste rondoni che ci ascoltano su internet, due amici della Toscana. E parliamo di Modena City Ramblers, che a quanto pare prossimamente usciranno con un nuovo lavoro. Sì, Sul tetto del mondo sarà appunto il loro nuovo disco, che sarà anticipato dal singolo 10 volte. Parliamo del 12° album della band emiliana e sarà un lavoro che si racconterà attraverso 13 canzoni, ma una buona lettura di questo CD è già ben rappresentata dalla copertina, dove appare scritto un riferimento. Appunto, questo è un disco dei Modena City Ramblers ed è intitolato Sul tetto del mondo, un po' insomma autobiografico, mm-hmm. quasi che il ranocchio appunto che compare nella copertina possa interloquire sullo scaffale del negozio. Insomma, un po' anche si gioca anche molto sulla grafica ormai nei CD, nei nuovi proprio lavori. Uno studio, un laboratorio, sì, di vendita. Sì, e non solo attraverso i suoni e i testi dei loro brani, ma vogliono appunto un rapporto diretto con chi si va ad approcciare con loro, anche attraverso l'acquisto del CD. I brani, tra l'altro, sono stati scritti, arrangiati, musicati e prodotti dai Modena e registrati nonché mixati da Carlo Enrico Pinna intorno ai mesi di novembre e dicembre dello scorso anno presso lo studio Esagono di Rubiera in provincia di Reggio Emilia. Bene, bene, siamo proprio curiosi di andare ad ascoltare questo nuovo lavoro dei Modena City Ramblers, che apprezziamo sempre davvero tanto. Rock and roll! Alzate un po' il volume. Ci ascoltiamo adesso The Black Keys. Si intitola semplicemente Settati in modo libero. Dovremmo farlo un po' tutti. Set you free. You hold on, the load is gone. Run on my, to see him fly. But you don't know, he's on the door. Playing you for the fool. Let him go. Walk out the door and come to me. I'm gonna set you free. Caro Gianni, un'altra autonomia di 30 minuti per il raffreddore, dopodiché le mie narici saranno completamente otturate. E non potrò parlare se non a singhiozzi. Set you free, Black Keys. Su CRM Happy Radio, quest'altro venerdì sera, all'insegna della musica rock e la musica inedita, emergente e Rock Revolution, per dirla breve. Adesso due brani in sequenza, I Placebo e poi Dire Straits, chissà quale, se Walk of Life oppure un'altra, scopriremo tra poco, dai. Second of night. Rock Revolution su CRM Happy Radio. The way you do it, you play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave. Money for Nothing, Dire Straits e il Placebo in questa sequenza di due brani che abbiamo appena ascoltato. Dobbiamo salutare qualche amico da Facebook, purtroppo non possiamo farlo per tutti, soltanto alcuni, fortunatissimi. A nome di tutti salutiamo Giuseppe Zuccaro, che appunto ci saluta i The Other Side, che sono un gruppo di Bolognetta, e noi rigiriamo i saluti a tutti i componenti della band. Salutiamo anche Bolognetta, un bel paese. Va bene. Allora, Rock Revolution in audio streaming, ormai sapete, la nostra community su Facebook, facebook.com/rockrevolution, giusto Simone? Redazione, aspetta, mi ricordo più. Redazione @rockrevolution.it, contattateci, fatevi conoscere. Questa è la nostra mail, mentre su Facebook... Su Facebook è www.facebook.com/rockrevolution, facilissimo. Benissimo. Poi salutiamo gli amici che ci si mandano i messaggi al 335 56 37 251. Ormai da tante città d'Italia, questo ci fa molto piacere, che sappiamo insomma che ci sono delle band che poi sono ospiti, che continuano a seguirci, e a viceversa poi anche molti amici che li seguono indirettamente seguono anche noi. Ah, una bella canzone tranquilla, So De Fero, sti ragazzi, So De Fero. Sono gli Iron Maiden e questi fan metal. Future Real all'interno di Rock Revolution. Buon ascolto, siamo in diretta su CRMP Radio. Rock and roll. I'm running out of my time, I'm running out of breath, and now it's getting to I can't sleep at night. In the day, I feel like death. I'm getting in my teeth, I feel them closing in. I've got to say that I'm scared, I know they'll win. Even so, I'm prepared. Do you believe what you hear? Can you believe what you see? Do you believe what you feel? Can you believe what is real? your weakness, then I will be gone. Maybe then you will see. Do you believe what you hear? Can you believe what you see? Do you believe what you feel? Can you believe what is real? Future real. What is real? Future real. Sembra intanto il gioco delle carte con le canzoni in playlist di Gianni. Sono le canzoni che salgono come in classifica, salgono e scendono così. Non si sa mai cosa c'è adesso. Guarda, io avrei anche messo gli U2 con Stereo the Sun, molto carina, eh? Vabbè, hai scelto questa. Vabbè, hai voce tu il capitolo, fai tu. D'altra parte, insomma, è bella anche questa. Dai, sono gli Oasis con i Rem, altri due pezzi in sequenza. Così noi ci riposiamo, prendo un po' di fiato perché ormai la mia autonomia sta davvero finendo. E li ascoltiamo. Buon ascolto, Rock Revolution su CRM. Seems to me you only see what people Rock Revolution su CRM Happy Radio. Almeno una volta puntata deve farlo, è più forte di lui. Vabbè, erano due brani in sequenza, gli Oasis e i Rem. Anche quest'oggi, caro Simone, siamo arrivati, per fortuna io non ce la faccio più, ho il naso completamente chiuso, questo raffreddore speriamo passi presto. Mi hanno detto che dura almeno una settimana, io dovrei aver fatto già 4 giorni, insomma, me manca buon punto. Ma anche poco. Va bene, salutiamo la nostra regia Gianni che stasera si è divertito, anche tutti gli amici sono venuti a trovarci, la nostra regia, la nostra redazione, scusate, Ida, ciao con la manina da quella parte, caro Simo, anche stasera ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Prossima settimana altri artisti emergenti in studio, intervista telefonica, quindi mi raccomando tenetevi sempre aggiornati sul nostro sito internet www.rockrevolution.it per scoprire i prossimi ospiti e le prossime novità che sempre riserviamo per voi. Sempre e puntuali, poi c'è anche il podcast, non lo dimenticate. Va bene, grazie a tutti, quindi una buona settimana. Bye bye! Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Happy Radio.